L'Evangelo per radio. Il valore della nuova nascita. Cari ascoltatori, molto probabilmente conoscete già la strana intervista che viene riportata nel quarto Evangelo. Là si racconta di un eminente maestro di religione, Nicodemo, un uomo buono, dalla mente aperta, che una notte va a trovare Gesù per rivolgergli alcune domande. Ma quando ancora sta pronunciando le sue frasi preliminari, Gesù lo interrompe e va dritto al punto essenziale, dicendogli che deve nascere di nuovo. Queste erano parole che, anche per un teologo giudeo con elevato grado di istruzione come Nicodemo, avevano un suono assai poco familiare. Nicodemo è perplesso e risponde a Gesù: «Come può un uomo nascere quando è vecchio? Può egli entrare una seconda volta nel seno di sua madre e nascere?» Ebbene, cari ascoltatori, sono convinto che ancora oggi ci sia molta gente che, come Nicodemo, si pone delle domande per sapere cosa bisogna intendere per nuova nascita. Gesù ha usato questa metafora o questa allegoria per descrivere la necessità di un cambiamento, di un rinnovamento radicale, e non vi era modo migliore per illustrarlo. La Bibbia ha diversi modi per descrivere questo cambiamento, ma la nuova nascita o la seconda nascita forse è il modo più chiaro. Senza alcun dubbio è questo il centro del messaggio del Nuovo Testamento, cioè affermare che Dio concede nella sua grazia un nuovo ordine di vita a coloro che, con umiltà, accettano il suo dono. Purtroppo dobbiamo dire che l'insegnamento della Chiesa tradizionale, con un'interpretazione sbagliata ma che però viene comunemente adottata e accettata, ha oscurato il messaggio del Nuovo Testamento e ridotto la religione cristiana a una lotta morale o ad un impegno a seguire l'esempio di Gesù con l'aiuto della preghiera e con una vita che sia abbastanza religiosa. Ma qualsiasi cosa che non sia l'offerta di essere riportati allo stato iniziale e di essere creati di nuovo è uno pseudomeno cristianesimo, o meglio, un cristianesimo addolcito. Dobbiamo ricordarci sempre che, prima di essere un codice morale, il cristianesimo è un buon annunzio. La nuova nascita avviene nel momento in cui un essere umano riconosce il suo fallimento e la sua incapacità. Egli si presenta a Dio per avere il perdono e la vita, e si offre alla potenza ricreatrice di Dio. Per molti la nuova nascita non può essere che traumatica, cioè per coloro che hanno un modo di vita che si è cristallizzato in comportamenti di vita e di pensiero che non sono cristiani. Per esempio, il dover negare quello che fino ad ora si era affermato e sostenuto, e dover affermare quello che fino ad ora si era messo in ridicolo e negato, è certamente penoso e costoso. E possono correre anni e anni per avere una vita equilibrata e sana. La nuova nascita nel senso spirituale avviene in un attimo, ma nella vita pratica si manifesta molto lentamente nel corso degli anni. La vita di una persona che ha creduto sarà punteggiata da molte cadute e molti scoraggiamenti, tanti quanto ne affronta il bambino quando inizia a stare in piedi, a camminare, a correre o a nuotare. Vi saranno periodi di crescita squilibrati, casomai tutti da una parte, un entusiasmo immaturo, o la pretesa di una conoscenza più vasta di quanto lo sia in realtà, esattamente come capita a qualsiasi persona che sta crescendo. A volte vi saranno delle ribellioni, come quelle dell'adolescente che deve mettere alla prova le sue convinzioni e stabilire la propria identità. Quasi certamente sopraggiungeranno dubbi e interrogativi, perché sono quelli i mezzi per arrivare a una comprensione più profonda. La crescita verso la maturità è graduale, ma nella vita spirituale non si va gradualmente verso la vecchiaia. Quando il corpo diventa fragile ed esausto, perfino anche quando la mente perde la sua lucidità, la vitalità spirituale e la crescita spirituale possono ancora continuare. Chi ha quindi realizzato la nuova nascita ha un grande cambiamento di vita, è come la materia grezza che pian piano viene lavorata dal Gran Maestro. Dove era disonesto, l'uomo diventa degno di fiducia, l'ozioso si trasforma in un lavoratore indefesso, il pauroso si fa coraggioso, la persona ansiosa diventa amorevole, quella volubile impara a mantenere la parola data, l'egoista sposta il suo interesse da sé agli altri, e così via. Il processo è lento e non si completa in questa vita. Ma Dio agirà nella persona nata di nuovo dall'interno, fino a che le qualità della vita di Cristo, per esempio, amore, gioia, pace, pazienza, gentilezza, bontà, fedeltà, umiltà e autocontrollo, diventano prodotti spontanei come i frutti di un albero. Una cosa è molto importante. Chi ha realizzato la nuova nascita non ha un'alterazione del complesso delle qualità naturali caratteristiche della sua indole. Anzi, esso può arrivare a fare un miglior uso del proprio carattere. Se Cristo gli dà autocontrollo, sarà meno alla mercé della sua ostinazione naturale. La gloria e la pace che riceverà mediante la sicurezza di essere riconciliato con Dio gli dà la possibilità di avere un umore meno vulnerabile e quindi si lascerà dominare meno dalla scontentezza. Ristabilire un nuovo rapporto con Dio significa essere maggiormente disposti ad accettarsi come si è e a perdonarsi, due fatti grandissimi, necessari per la pace interiore. Questi fatti fanno sì che il cristianesimo, praticato come il suo fondatore lo ha inteso, non è una religione d'evasione dalla realtà di oggi, ma una vita nuova in cui l'intimo è trasformato. Il nato di nuovo riceve la forza, per grazia di Dio, che gli occorre per vivere e amare e alla fine affrontare la morte con fiducia. Caro ascoltatore, il mio discorso ha avuto come solo scopo quello di farti riflettere se veramente sei nato di nuovo, se hai realizzato che Dio ha fatto per te ciò che non meriti e se agisce in te per fare quello che tu per natura non sei capace di fare. Ebbene, se hai afferrato questo scopo, rallegrati in Dio e poi, se vuoi, scrivici, telefonaci, e noi saremo ben contenti di rallegrarci con te, poiché anche noi un giorno siamo nati di nuovo.